24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo come la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca! Ma si può stare senza Senato, Giova? No, perché l'ultima volta che a Roma l'hanno abolito sono arrivati i barbari. Certo, tu mi dirai, rispetto a uno come Razzi, sono più candidabili i barbari. Vabbè, gioco facile, contro Razzi si può dire tutto, contro Razzi è facile, caro Crozza. Allora, sono le 6:32 minuti, io qua la spugna, oggi mi sono svegliato e ho detto oggi getto la spugna, non lo so. Chiedo subito un soccorso a Paola Saluzzi. Paola! Parla proprio chiarino, Paola. Getti la spugna, buongiorno! Buongiorno Paola. A tutti i nostri ascoltatori, ma già è successo su Twitter di tutto, perché Alino Milan dice butto la spugna e si è creato giustamente no. Tutti serio. No. Non esiste, non è la spugna raffreddata come sentite anche senti, da me. Senti, ti do quei 4-5 euro e conduci tu. Se puoi. Non sarebbe la stessa cosa. No, sì, vogliamo te. Assolutamente. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buon mercoledì, siamo a metà settimana, come dice il nostro alpino Peter Bescapé, non è che siamo è ancora mercoledì, è già mercoledì. È già mercoledì. Domani, giovedì, venerdì, alle forze sabato e sesta. Vedi, è facile. Adesso getto la spugna. Non ce la faccio, getto la spugna. Guai. Va bene. Sono le 6:33 minuti, questa è 24 mattino, c'è Miriam Lucchetti che corre. Dove corre? Non lo so, ci ha abbandonato, è andata a prendere un'altra spugna, non lo so. C'è il nostro alpino Peter Bescapè in regia, c'è la nostra Paola Saluzzi e c'è dopo l'apertura del Parlamento, però così manteniamo un ordine istituzionale. Il caffè volentieri a tutti quanti. Anche il nostro Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Oh, direttore. Buongiorno, come va? Sì, tutto bene. 100 euro per me. 100 euro, va bene. Quindi 105, 106 euro. No, 105, poi dopo facciamo pubblicità. E insomma, ma comunque, diciamo, con un po' di euro, un centone abbondante, conducono Luca Dini e Paola Saluzzi oggi. Allora. Molto bene. Allora, Milan, vogliamo sentire la tua voce timpante. Buongiorno intanto, perché i temi sul tavolo sono tantissimi. Oh, a cominciare dal scegliene uno tu. Non fumo, ma arrosto di Londra. Oh mamma mia, questa è chi è l'arrosto di Londra? Renzi? No, nel senso dice tanto fumo e niente arrosto, e invece pare che l'arrosto ci sia, insomma, siamo pronti a vedere che cosa succederà delle leggi, di tutto ciò che il governo dovrà fare. Ti dovrebbe assumere come sottosegretario alle comunicazioni ufficiali del governo, perché secondo me funziona abbastanza. È la curiosità, vogliamo capire. Beh, insomma, intanto quello che si capisce è che la disoccupazione è al 13%, a livelli mai raggiunti dal 77, e dal 77 ci sono le rilevazioni dell'Istat, quindi questo, insomma, questo è facilissimo da capire, no Paola? Poi tutto il resto... Tutto il resto però deve essere la soluzione, perché negli stagni ci stanno le rane, noi credo che abbiamo il diritto come persone, come paese, come tutto, a vedere quali siano le soluzioni che si stanno trovando, perché non esiste una notte che duri per sempre, no? No, ma infatti adesso vediamo quali sono le soluzioni, la flessibilità. Renzi dice che bisogna essere più flessibili, c'è questo Jobs Act, insomma, stiamo a vedere cosa succede. Certo che Luca Dini si percepisce così, come 13%, soprattutto il 42% tra i 15 e i 24 anni, 42%, quasi un ragazzo su due, è disoccupato, questo è il vero. È terribile. È il vero dato da contrastare. Ma io, ecco, quando il Corriere della Sera scrive oggi che ci sono 10 leggi che si fanno, che si rottamano, e 12 che se ne fanno contemporaneamente. Intanto sta agitando la spugna anche la Saluzzi. 10 leggi si distruggono e 12 se ne fanno. Luca, non dovremmo iniziare da lì? Cioè, siamo il paese proprio della burocrazia parruccona. Ecco, come si riforma un paese così? Beh, bisogna iniziare, come dice Paola, cioè bisogna dare una possibilità. Anch'io sono della sua idea e sono contrario al cinismo, all'istruttismo di chi sta un po' remando veramente contro, che ti fa sbuffando contro qualsiasi possibilità. No, ma è chiaro, sì, in questo momento c'è il premier che corre e tutti gli altri. Tu, Paola, sei disposta? No, ma in questo momento c'è Alessandro, il direttore, chi ci ascolta, insomma, il nemico numero uno si chiama, per l'appunto, burocrazia, difficile da cancellare, come voler cancellare una composizione calcarea che si sia formata su una pietra o altrove in un centinaio d'anni, perché questa è l'Italia da quando è unita, insomma, ma penso fosse così forse anche prima, solo che a quel punto tu devi decidere se fare o non fare la battaglia, e non c'è niente di politico, non per stare sempre in mezzo e tenersi distanti da tutti, non c'è niente di politico, di scelta politica in questo, c'è una scelta pratica. C'è una scelta pratica. Fare e pretendere che la politica faccia, perché questo è il senso. Per esempio sul Senato c'è tutto un profluvio di sì, cambiamolo, però sì, facciamolo, ma... no, che sono quelle dietro quei però. Ma dietro questo ci rende diversi dalla Cina, dove arriva uno, va in Europa e dice, ma sì, d'accordo, e diamo uno comunicato. Ma va bene, cioè, però ecco. ci rende un po' troppo diversi, no? Molto diversi, per cui non si fa niente. Ma sentite per esempio, ecco, visto che è stato nominato, lui, il senatore, no, ma è onorevole o senatore Razzi? Non lo so, tu lo sai, Paola, Luca, sai se è onorevole o senatore? Avanzo i miei dubbi, ma diciamo così. Temo la seconda. Temo Senato? Temi Senato? Temi il Senato? Forse sì, forse hai ragione. Comunque Razzi. Io penso che abolire il Senato è una cosa gravissima, ma non perché per me, no? Perché il Senato esiste dall'antica Roma. I senatori e sono i veri saggi della politica. Oh, eccolo lì, è al Senato, l'abbiamo verificato. Lui quindi è un saggio. I veri saggi della politica, se ci sta anche lui al Senato, caro Luca. Un saggio di danza, no? No, vabbè, questa. No, vabbè. Abbiamo un direttore Dini molto carico. Sì, sì, abbiamo. Al limite, il saggio di danza. Razzi, vabbè, almeno uno si sposta alla Camera e dice: vabbè, lì alla Camera almeno avranno fatto una discussione molto, molto seria, no? No? Approfondita, eccetera. Cara Paola Saluzzi, caro Luca Dini, cari ascoltatori, il nostro buon anno leghista, quello che ne combina una in fila all'altra, si è presentato con una spigola. Allora noi non pensiamo ai nostri pensionati che magari mangiano acciughe, non pensiamo ai nostri pensionati che magari per andare avanti mangiano sardine. Allora io ho pensato che sia giusto, qua c'è una spigola. No, collega, rimuova quella spigola, chiede ai commessi di intervenire, la richiamo formalmente. Rimuova quella spigola. Beh, Di Maio è stato molto elegante. No, vabbè, rimuova quella spigola, proprio con la spigola esibita. È espulso, se sta risultato per buon anno. Espulso credo che sia come Ibrahimovic alla 25esima espulsione stagionale. Ibrahimovic dei bei tempi, non lo so. Vabbè, c'è anche questo. No, al di là di questo, tu li capisci, Luca Dini, distinguo sul Senato, ma non so, però... No, certamente no. Per carità, no. Discutere si può, no? Si deve. Sì, però basta davvero, cioè... Basta un po', non si può più sentire. Ecco il discorso lì, cioè, siamo all'obiezione a prescindere. Ecco. Mi sembra che in questo momento, francamente, io sono assolutamente favorevole, cioè, sono tipo per qualsiasi cosa. Cioè. A questo tipo di riforma? Sì, effettivamente l'idea è che dopo 30 anni forse qualcosa bisogna pur farlo, o no, cara Paola? Muovere l'acqua, ribadisco, lo stagno non ci piace, muovere l'acqua, fare capire come apportare queste modifiche in modo tale che siano delle rivoluzioni buone, non quelle che tagliano la testa agli individui, anche se quelle poi hanno fatto la storia, ma insomma non ci sono piaciute per niente. Trovo oggi sui giornali altri temi altrettanto importanti su cui per fortuna c'è stata una levata di scudi, questo sì, lì la politica non c'entrava tanto, ma mi riferisco al garante dell'infanzia Vincenzo Spadafora, la Boldrini, cioè, ecco, quando sì. Ieri si è letto pagate, patteggiate 40.000 euro se poi siete stati con la baby prostituta, pazienza, guarda, ma io su questo tema proprio era una finta notizia, no, ma proprio su questo tema vi volevo portare, perché tra l'altro di questo io parlerò alle 8 e 15. Allora, la notizia appunto è questa: ci sono alcuni dei clienti delle baby prostitute che hanno chiesto il patteggiamento, cioè patteggiare, pagare 40.000 euro, al limite il ritiro del passaporto per 5 mesi, insomma movimenti limitati per evitare la pubblicità negativa di un processo. Però attenzione, io avrò anche oggi Filippo Facci alle 8.15 tra gli altri ospiti, e Filippo Facci dice oggi sul Libero, ma insomma il patteggiamento è un qualcosa che è previsto proprio per evitare le lungaggini dei processi. E allora cosa c'è di male? Perché per questo reato non si può? Paola. Facci è persona che io, giornalista che seguo sempre, perché non è che dica le cose da bastian contrario, propone e sottolinea cose giuste, il patteggiamento esiste, è che proprio ti è venuto da saltare sulla sedia. Ma certo, capisco. Ti sono portati a letto ragazzine di 14 anni e tuono dicendo 14 anni, dove distratta, truccata, addobbata e sistemata, non puoi non accorgertene, va bene? Allora, lì il patteggiamento... creiamo qualcos'altro, non si vuole la pubblicità negativa, tutto è comprensibile, in questo senso tutto è comprensibile, perché le gogne non aiutano nessuno. Questo certamente. Quindi non è la gogna mediatica che si vuole. Luca, tu Luca dicevi no alla domanda, proprio non si può patteggiare, cioè secondo te... No, in questo caso ben vengano le lungaggini, cioè onestamente, e poi francamente nessuna simpatia per Mauro Floriani, però non capisco perché... siano state messe la gogna e gli altri con 40.000 euro se la cavano senza È vero. No, ecco, quello, a me quello che ovviamente quello che disturba di più, ha fatto sobbalzare sulla sedia, infatti ieri abbiamo deciso di occuparcene, oggi ce ne occuperemo, è questa cosa della cifra, cioè tu non solo hai speso una cifra, hai contrattato una prestazione sessuale con una minorenne, e poi cosa fai? Siccome evidentemente hai la disponibilità adesso con 40.000 euro, no, compri, cioè, mi ha dato la sensazione che venissero vendute due volte. Esatto. Dirlo? Ho avuto questa sensazione brutta, fisica, brutta, vendute due volte. Ma infatti... Poi è legge. No, infatti. Infatti la questione è questa, ovviamente i magistrati hanno detto, la procura ha detto non c'è nulla di certo, valuteremo caso per caso, perché chiaramente uno il patteggiamento lo propone, l'avvocato, e poi il magistrato, la procura deciderà se magari, immagino che per quelli che sono più invischiati non ci sarà il patteggiamento, quelli, ma poi non lo so, su cui stabilire una classifica di chi è più invischiato, chi no, cara Paola, non so. Comunque insomma, che qualcosa ne venga fuori in una forma ci impedisca in futuro di finire come paesi dove vai e ti vendono l'infanzia. Sì, no, ma questo certamente. Vendono l'infanzia perché tu la possa violare, questo è. Però io non è che voglio fare un paragone, cioè lo faccio, ma perché la notizia è sul Corriere ed è la cifra, peraltro è la stessa. Giulio Tremonti, proprio ieri, scrive il Corriere, ha patteggiato versando 40.000 euro per la vicenda di una casa che gli fu prestata dall'ex onorevole milanese. Allora chiedo, in maniera molto laica, secondo te, caro Luca Dini, sono due cose diverse, cioè chiaramente sono due reati diversi, non c'entra niente, ma bisognerebbe distinguere, cioè in alcuni reati particolarmente odiosi come quello delle baby prostitute non si può, tu prevederesti nessun tipo di patteggiamento? Sì, francamente sì, e in ogni caso personalmente non l'avrei previsto neanche nell'altro caso. Neanche nell'altro caso. Vabbè, ho capito, no. Però questo, cioè, il patteggiamento in realtà nasce proprio per evitare poi i processi infernali, lunghi, per non ingolfare le aule di tribunale. Però insomma il tema è molto dibattuto. Riprendiamo magari da qui tra un attimo, dopo il traffico. 24 mattino. Alessandro, che fine fanno le notizie relative alle inchieste che ci dai giornalmente? Alludo a quando ci consigli di tenere le mani strette sul volante. I soldi non ce li restituiscono i papponi governativi, o no? Per me non si vergognano nemmeno. Allora mi domando, perché ci fai tanto arrabbiare al mattino, Milan, se poi finisce tutto così in gloria? Comunicazione al popolo italiano, popolo di pecore, ancora una volta vi hanno fottuto. Gli 80 euro ve li prendete nella Kiul. Pecore, pecoroni. Caro Milan, te l'ho già detto una volta e così voglio ribadirlo. Per fortuna che al mercoledì hai Luca Dini e la Saluzzi, che alzano la media dei tuoi ospiti. Datemi la Saluzzi, ne vado pazzo, troppo forte quella donna, troppo bella quella donna, troppo intelligente, fatemela sentire più spesso. Complimenti Saluzzi, sei una bellissima donna. Dai Renzi, non fermarti adesso il passo. Non ascoltare il presidente Grasso, che se ne sta tranquillo, sistemato, sul seggio superiore del Senato. La via troverà così smarrita, persino tutti i senatori a vita. Ciao ne, da Felice Pautazzo. Ma che, questo è un grandissimo. Vabbè, poi i complimenti, il miele, lo zucchero, la melassa. Sono una donna felice. Felice il nostro direttore Luca Dini, che eleva il livello. Vabbè, ma insomma li abbiamo pagati pochissimo. Abbiamo pagati 2 euro, li abbiamo pagati a messaggio. Abbiamo detto che sono bello, però. Dai. No, infatti, questa cosa. Invidioso. Abbastanza invidioso. Poi c'è anche Paola Saluzzi, ci sono dei messaggi. C'è chi mi scrive. Vabbè, è il sabato è festa solo per voi, debosciati, e questo l'ha detto Paola Saluzzi, che sabato è festa, e quindi vabbè, però sono solo messaggi da... Hanno ragione, non sempre il sabato è festa, però devo dire l'ultima canzoncina. No, aspetta, oh, Paola, ma... c'è questa, scrive la canzone. Ti ricordi quello della pillola colorata? Sì. Ecco, ci scrive Marco, non lo so, io lo devo prendere per vero. Oggi compio 40 anni, cara Paola, mi regali un bacio? Era un bacio. Cioè, buon compleanno Marco. Ecco qui, era un bacio, va bene. Il bacio di Paola Saluzzi. E va bene. No, che dovevi dire della canzone? Che ci avevi da dire? Ma, creatività, certo. Quello sotto, no, i nostri ascoltatori. Vabbè, dobbiamo aggiungere qualcosa della questione del patteggiamento. Ti ascolteremo. Ah vabbè, sì, alle 8:15. Allora, cara Paola, hai perso l'attimo ancora. No, ecco, intanto la copertina di Vanity Fair, io ce l'ho qua, sono due, hai perso l'attimo, aspetta, poi te lo dico tra un attimo, perché la copertina di Vanity Fair è Gwyneth Paltrow, no, e si è separata, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. A proposito di questo, c'è una notizia oggi sui giornali, io quando l'ho letta sulla stampa ho dato di testa, arriva il divorzio breve. Ecco, questa è un'altra cosa in Italia, caro Luca Dini, quante volte abbiamo sentito da 20 anni, arriva il divorzio breve, cioè sembra... Ecco, lì evitiamo le lungaggini, non nel patteggiamento. E comunque... Quando prima lì. Ecco, invece come hanno fatto qui in America? Si sono separati in 2 secondi? No, in realtà, poi loro sono, credo, in Inghilterra. Matera, quindi non so quanto ci voglia, però sì. C'è Miriam Lucchetti che mi guarda e mi fa: ma come in America non sei una minchia? Grazie Miriam, però parliamone un giorno. Però Luca Dini, guarda con che aplomb, non è che mi ha detto no Alessandro, no, lì però effettivamente sono in Inghilterra, in Gran Bretagna, se no i miei 100 euro poi. esatto, no, ecco, ma io ho detto, ha perso l'occasione della vita, cara Paola, ancora, hai perso l'ennesimo treno, George Clooney si è fidanzato. Ma ne sono lieta. Ma no, ma non dirlo come dire chi se ne frega. No, nel senso, no, non chi se ne frega. George Clooney è un uomo eccezionale. E ribadisco, al di là della bellezza, è eccezionale per la testa e per quello che fa. Sì. Uno che continua a lavorare su Darfur e affini. L'ultimo film, Monuments Man, bellissimo. Quindi è un signore di fronte al quale io butto il cappello per terra. Prima ancora della sua bellezza fisica. Dopodiché, ben venga che sia fidanzato, anche perché l'ultima era tanto antipatica. Eccola! Oh, mamma mia! Che è questa? Faccia, mamma santa, questa faccia. No, questa che, vabbè, veramente. Voi di Vanity Fair l'avete seguito. Ma dov'è che l'avete? Com'è che si chiama? Amal Alamuddin, avvocato anglo-libanese. Cioè, proprio. Siete andati a scovarli, se l'ha nascosti su un'isola, eccetera. Vabbè, ma insomma. E lo trovate su Vanity Fair, ma la mia segnalazione è questa. Io lo sapevo, immaginavo che il nostro direttore avrebbe dedicato una pagina, qualcosa a questo, perché è uno dei miei pallini. Allora, il 6 aprile, è il 20° anniversario, sono 20 anni del genocidio in Ruanda, una cosa che è stata una cosa terribile e molto dimenticata, anche se sono morti circa 800.000 persone in 3 mesi. E allora questo è l'articolo che io segnalo da Vanity Fair e che leggerò, perché lì la cosa, caro Luca, è che tutti si trasformarono anche in assassini. Sì, cioè le persone normali. È spaventoso quello, capire come si arrivò a quella cosa, perché si è sempre parlato di quello che successe, un pochino poco di che cosa lo scatenò e come successe, che persone che erano in famiglia, fratelli, amici, improvvisamente diventarono aguzzini. Fu una davvero un impazzimento di 3 mesi, impazzimento nel senso, in realtà una follia collettiva che trasformò persone normali in carnefici e in assassini. Cara Paola, che dobbiamo dire? Questo lo trovate ovviamente su Vanity Fair con gli altri servizi. Tu ovviamente avremo molte considerazioni da fare. Libera il mostro che è nelle persone, nei parenti e negli amici, nella gente che abitualmente viene in doppio petto, e vedrai che cosa ne viene fuori. Ma questa è una considerazione troppo drammaticamente filosofica. Che cosa dirò? Che leggerò come sempre con la massima attenzione Vanity Fair, ma sottolineo, un grande successo editoriale. Il libro della nostra Wonder, che sta andando a bomba, e ci tengo a dirlo perché ho amiche, contro amiche, persone, amici che non solo lo leggono d'un fiato, violini, ma lo regalano. Violini, brava, è la storia di una grande, meravigliosa, fantastica, splendida, eccezionale ragazza. Ti ha messo i violini, Peter? Vanno benissimo anche i violini. Vorrei così suggerire letture di aprile. Sì. Fanno bene alla testa e fanno bene al cuore. Quindi andiamo avanti. Okay. A Wondi tutta. E tu invece che fai oggi alle 3? Di che ti occupi? Oggi noi ci occupiamo di politica, superpolitica, con la bussola dei sondaggi con il nostro Gianluca Semprini, e siamo sempre sul pezzo per vedere che cosa si dica intorno a questo cambiamento che sta avvenendo, deve avvenire, avverrà. Avverrà. Oh, e soprattutto avverrà, lo ha detto il sottosegretario alla comunicazione del governo Renzi, Paola Saluzzi. E allora vi ringrazio con Luca Dini e Vanity Fair che trovate in edicola e Paola Saluzzi alle 15 su Sky. Evviva, alla prossima ovviamente, Giornale Radio. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:17 minuti in questo istante, allora debosciati d'Italia, muovetevi! Dovrei dirlo per primo a me stesso perché oggi sono più o meno descrivibile come un rottame anche un po' calpestato, ecco. Questo è la descrizione. Comunque alle 7:17 minuti oggi parleremo di cosa? Parleremo di questa vicenda dei patteggiamenti richiesti da alcuni dei clienti delle baby prostitute ai Parioli a Roma, una vicenda che ha suscitato molte polemiche, a dire come non è possibile patteggiare e con 40.000 euro per evitare la pubblicità del processo chiudere questa vicenda così. Ha creato sdegno, reazione nel mondo della politica, il garante dell'infanzia. Noi avremo ospite Filippo Facci, giornalista di Libero, avremo ospite la giornalista del Messaggero Valentina Errante, che se ne sta occupando dal punto di vista della cronaca, avremo ospite l'onorevole Sandra Zampa, che è vicepresidente della commissione bicamerale per l'infanzia, che ieri ha detto no al patteggiamento, poi la procura deciderà. Comunque parleremo di questo alle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. In questo mercoledì 2 aprile i titoli sono quasi tutti declinati alla situazione della disoccupazione molto grave in Italia con gli ultimi dati dell'Istat. Disoccupazione al 13%, persi 1.000 posti al giorno, così apre il Sole 24 Ore, mentre il Corriere della Sera, tanti disoccupati come nel 77, questo è il titolo. Repubblica, disoccupati record, Renzi blinda il piano per il lavoro. La Stampa, disoccupazione record, Renzi serve flessibilità. Il Messaggero, disoccupazione shock, 13%. Il Fatto Quotidiano, 3,3 milioni di disoccupati, c'è chi si vende su eBay. Libero, le idee anticrisi che fanno guadagnare. Il Giornale, Renzi taglia questi, lo scandalo dei giudici della Corte Costituzionale da 500.000 euro l'anno. Il Secolo XIX, Renzi, 800.000 nuovi posti, serve più flessibilità, mentre l'Unità, lavoro, cambiamo verso. Avvenire, 1.000 posti al giorno, ecco il lavoro da rifare. Il Manifesto invece, fumo di Londra, c'è il titolo con la foto di Renzi che ha incontrato ieri a Londra, James Cameron, James Cameron è un altro, ve l'avevo detto, che questo è, come si chiama, David Cameron, insomma il premier britannico, quella roba lì. Allora, io voglio partire però da che cosa, vabbè, ma ormai sembra quasi un mantra anche oggi un po' più rottamato, quello che vi dico se siete in macchina di tenere le mani strette sul volante prima di leggere gli articoli che riguardano in realtà la chiusura delle indagini, il rinvio a giudizio, la vicenda è quella solita delle spese nostre, anzi delle spese loro con i soldi nostri, della regione Campania, dove dalla tintura per capelli per il consigliere Calvo, alle Barbie, ai vini pregiati, alle ceramiche d'arte, alle cene coi fondi regionali, alle cravatte, alle piante, alle bombole per gas, alle spese per la Tarsu, non si sono fatti mancare niente. Alla regione Campania, ora in 52, anzi 51, vanno a processo, racconta Concita Sannino tutto, la tintura per capelli del consigliere Calvo, bufera in Campania. La notizia in realtà che ha fatto più specie è che tra gli indagati ci sono anche tre parlamentari, ma uno di questi è anche il sottosegretario, la vicenda è sempre quella, Umberto Del Basso De Caro, sottosegretario accusato di peculato, 11.300 euro spesi in due anni, come ricorda lui stesso in questa intervista di Repubblica Ottavio Lucarelli. Dice: ho speso tutto in attività politica, sì, ma lei non ha mostrato nessuno scontrino, la legge non lo prevedeva e quindi non ho presentato scontrini, tanto che il titolo dell'intervista è: mai presentato uno scontrino, e allora? La legge non lo prevedeva, io sono un avvocato e lo so bene, sì, ma oggi la stessa legge c'è e lei non potrebbe fare queste spese senza rendicontarle. La risposta del sottosegretario è vero, oggi la legge non lo consente più. punto. E vabbè, e comunque sarà anche lui rinviato a processo, vedremo come va a finire. Anche per il Messaggero, spese, rimborsi d'oro verso il processo, 51 consiglieri campani, e ci sono le solite cose, ormai non fanno neanche più rabbia, c'è proprio la rassegnazione più totale, tinture per capelli, locali notturni, insomma le solite cose, le solite spese delle regioni a cui siamo abituati. Anche per il Corriere, le spese allegre degli onorevoli campani, c'è subito la richiesta di dimissioni, per la verità non è nuova, per il sottosegretario, che dice: finché non sono condannato siamo in un paese garantista, non mi dimetto da nulla. A me invece, questa veramente, date le mani strette sul volante se siete in macchina, appoggiare le tazzine di caffè bollente, perché questo è lo spaccato che fa capire che l'Italia è indietro tipo di 500 anni rispetto ad altri paesi. Cosa è successo ieri all'isola della Maddalena in Sardegna? Ieri i carabinieri si sono presentati con le ruspe perché bisognava abbattere degli edifici abusivi. La Stampa, pagina 15: giù le mani dalle case abusive, rivolta di piazza, anche i preti contro le demolizioni disposte dalla procura. Nicola Pinna, pagina 15: la polveriera che rischia di saltare in aria non è quella già disinnescata di Punta Rossa. La bomba orologeria è la rabbia dei maddalenini nei quartieri periferici della città più militarizzata d'Italia, tra le case che nei prossimi giorni saranno rase al suolo. La protesta lievita, si fa pericolosa. Nelle ordinanze di demolizione ci sono prime case, ma non solo: terrazzi, stanzette, sgabuzzini, villette in riva, casotti trasformati in residenze stabili, perfino una villa ricavata su un vecchio fortino in uno degli angoli più belli dell'arcipelago. La struttura originaria seminascosta dai roccioni di Nido d'Aquila. D'Aquila è uno dei beni dimenticati dalla regione, ma la famiglia che la occupava aveva abbellito gli esterni e creato nuove stanze. Tutto abusivo, eh? E allora, ieri, prima di azionare le benne, l'esercito della procura ha trascorso una mattinata intera sotto assedio, bloccato da una barriera umana che ha circondato il parcheggio della scuola sottufficiale della Marina e impedito alle ruspe di uscire. E qui la tensione alle stelle, le forze dell'ordine hanno tentato la mediazione per liberare la strada, ma alla fine sono dovuti intervenire i carabinieri, che hanno deciso di usare la forza. Anche il vescovo di Tempio, Sebastiano Sanguinetti, ha lanciato l'appello: l'abusivismo edilizio e l'illegalità sono una piaga che lo Stato ha l'obbligo di estirpare con tutti i mezzi, ma magistratura e istituzioni devono trovare insieme delle soluzioni. Una famiglia che non ha altra sistemazione, anche se ha sbagliato, deve avere rispettato il diritto inalienabile a una casa. Io quando sento una frase del genere, datemi del cattivo, del cinico, ma quando sento dire una famiglia, anche se ha sbagliato, ha il diritto a una casa. Ma chi l'ha scritto che la casa è un diritto? Una casa abusiva è un diritto? È il diritto ad avere l'accesso alle case, il diritto ad avere, se uno non ce l'ha, essere iscritto alle liste comunali per avere una casa popolare. Questo è sacrosanto, il diritto. Ma il diritto a costruirsi una casa abusiva, se uno non ha una casa, ma dove sta scritto? Chi l'ha detto in questa Italia disastrata? Ecco, e poi succede questo, e cioè che non si capisce più se c'è una casa abusiva. La discussione dovrebbe durare un secondo: una casa abusiva va abbattuta, e invece non si capisce più chi ha ragione. Le vittime diventano quelli che urlano di più e hanno ragione, e così via. Ruspe contro l'abusivismo. La Maddalena nel caos. Anche l'Unità dedica con Pino Stoppon una pagina a questa, pagina 9: decine di persone col sindaco in prima fila, in questo caso non mancano mai gli amministratori locali, per bloccare il provvedimento della procura di Tempio. Tensione, tafferugli con le forze dell'ordine. Sì, siamo indietro di 500 anni, cari italiani. Altro che velocizzare e sburocratizzare e andare avanti in questo paese. Allora, notizia che c'è sui giornali: La Stampa mi ha incuriosito molto. Da oggi arrivano delle depenalizzazioni di alcuni reati Ne parla Francesco Grignetti a pagina 8 e il titolo è questo: coltivare marijuana e l'immigrazione clandestina non saranno più reati. E oggi il via al piano di depenalizzazione. Non ho capito perché Peter Pescapè mi fa ah, cioè era l'immigrazione clandestina che t'ha colpito? Non lo so. Comunque, Francesco Grignetti ne parla. Diventa legge una delle riforme impostate a inizio di legislatura, salvo colpi di scena con il voto di stamani. Alla Camera si vara la messa in prova. C'è un sistema per venire incontro a chi finisce sotto processo per la prima volta, limitatamente a reati con una pena fino a 4 anni. Ma poi la legge prevede una delega anche sulle depenalizzazioni. Uno è la depenalizzazione della coltivazione di marijuana, nessuno si scandalizza su questo, mentre c'è la depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina creato da Roberto Maroni, sul quale i leghisti fanno le barricate. La Lega non si arrende, dice Matteo Salvini, ma questo dovrebbe essere previsto oggi con un voto alla Camera, la depenalizzazione di questa tipologia di reati. Questo per quello che succede al Parlamento. E allora andiamo in qualche minuto in pubblicità e poi ripartiamo. Da che cosa? Beh, il dato sulla disoccupazione è quello che più ha colpito: 13% di disoccupazione, mai così tanti disoccupati come dal 77, e dal 77 sono iniziate le rilevazioni dell'Istat, quindi il dato più alto mai registrato. E di questo, anche di questo, Renzi era parlato con il premier britannico Cameron, perché ha illustrato le riforme, prima tra tutti quella che è definita come Jobs Act, cioè la riforma del lavoro. Alessandro Milan, il Belen Rodriguez dell'informazione, a mio insindacabile giudizio. Ma come il Belen Rodriguez? Ma dai, ma caro ascoltatore, ma se mi vedessi oggi, peraltro, ma su. Vabbè, allora, eccolo qua. La disoccupazione al 13%, sono persi 1000 posti al giorno. Questo certifica l'Istat ieri, è il titolo che trovate in apertura su tutti i giornali, soprattutto questa cifra: 3,3 milioni di italiani sono i senza lavoro e soprattutto il 42,5%, il 42%, la quota di giovani tra i 15 e i 24 anni, 42% vuol dire quasi uno su due che non trova lavoro. Tutti i dati sono snocciolati da Rossella Bocciarelli a pagina 3 del Sole 24 Ore, sono i dati dell'Istat, dei quali Renzi ieri ha parlato in qualche modo con il premier britannico Cameron nell'incontro a Londra, nella giornata a Londra, perché certo, racconta nei giornali, è arrivato e ha dovuto, voleva buttarsi sulle riforme, spiegare delle riforme, ma ha dovuto inevitabilmente avere a che fare anche con questo dato pessimo, dato negativo. Tra l'altro Goffredo De Marchis in prima pagina di Repubblica racconta la giornata di Renzi: non ci sono fiori o altri orpelli nel salone dell'ambasciata di Grosvenor Square. Qui gli imprenditori e i manager della comunità italiana nel Regno Unito sono entrati da una porta secondaria per incontrare Renzi, che li invita a sedersi come capita e parlano appunto di lavoro. Renzi illustra il Jobs Act, i suoi 8 rinnovi contrattuali, ne parla a lungo con il primo ministro David Cameron e poi ne parla con gli imprenditori e ascolta le loro ricette. L'amministratore italiano di una multinazionale racconta la sua storia, invita Renzi a non rallentare sulla lotta alla disoccupazione, dice: la mia azienda aveva 3.000 lavoratori prima della crisi, durante la tempesta siamo dovuti scendere a 2006, ma ora siamo risaliti a 3005, bisogna essere flessibili, così si torna a crescere. I testimoni non rivelano il nome di questo manager, fa parte, scrive Repubblica, della Chatham House Rule, la regola per cui da una riunione a porte chiuse si raccontano i contenuti ma non si raccontano, diciamo, non si dice il nome e cognome di chi ha detto le frasi. Lavoriamo in 80 paesi, ha detto un altro imprenditore, e abbiamo 10-12 cause legali ogni anno. Il 70% di queste è in Italia. Anche la nostra giustizia è un problema. E allora Renzi prende appunti e poi incontra Cameron e parla appunto del tentativo, sia col Jobs Act, col quale dice si possono fare modifiche, ma non si deve correggere l'impostazione strategica. L'obiettivo è scendere sotto il 10% nei prossimi mesi, nei prossimi anni, dal 13% attuale. Liberalizzazioni e sburocratizzazione sembrano queste le ricette di Matteo Renzi. A proposito di burocrazia, leggete la, in questo caso quella che è una, si può dire una rivelazione, una Bibbia negativa, quella di Sergio Rizzo oggi a pagina 6 del Corriere della Sera. Mette in luce quelle che sono le storture collezionate dalla Commissione parlamentare bicamerale per la semplificazione presieduta da Bruno Tabacci. Anche qui abbiamo una commissione per semplificare, sembra un po' già una contraddizione in termini. Comunque hanno lavorato, hanno raccolto le storture della burocrazia italiana. Già il titolo a pagina 6 è inequivocabile: l'Italia delle complicazioni, cancellate 10 leggi ne nascono 12. Capito? Ogni 10 leggi cancellate ne nascono 12. C'è per esempio questa chicca. Sapete che in Italia per trasportare un carico eccezionale via terra da una parte all'altra della penisola dell'Italia, ogni volta che si attraversa una regione, quindi una frontiera regionale, si deve chiedere il permesso compilando gli appositi formulari, che ovviamente sono rigorosamente tutti diversi da regione a regione, come se l'Italia non fosse da un secolo e mezzo uno Stato unitario. Ci manca solo, dice Sergio Rizzo, che gli chiedano il fiorino, come Non ci resta che piangere di Massimo Troisi e Benigni, no? Vi ricordate? Un fiorino! Ebbene sì, in Italia la burocrazia prevede che per trasportare un carico eccezionale, man mano che si passa da regione a regione, bisogna compilare le autorizzazioni su formulari diversi, ma vi rendete conto? Ah, vabbè. E poi la solita questione dei 462 decreti attuativi su 1277 necessari per mettere in moto i provvedimenti del governo Monti e Letta. Quindi, risultato: senza decreti attuativi non si attua nulla e tutto quello che magari leggete sui giornali in pompa magna come annunci rimangono bloccati. Insomma, l'Italia della burocrazia. La situazione è talmente difficile che, racconta il Fatto Quotidiano, ci sono persone che su eBay, il sito dove si vende di tutto, tra cui anche le auto blu, le persone si mettono in vendita, cioè mettono in vendita le proprie professionalità, fanno gli annunci di lavoro su eBay. Allora il Fatto Quotidiano con Valerio Cattano è andato un po' a spulciare tra le varie offerte. Eccolo qui per esempio: organista diplomato per sottolineare con le migliori musiche il vostro matrimonio e per rendere interessante la celebrazione, possibile collaborazione con un soprano o un violinista. Magari trovate un annuncio del genere su eBay, cioè non vi vendono solo l'abajur di vostra nonna o l'auto blu del governo, dei governi precedenti, ma anche persone che si mettono in vendita, fanno veri e propri annunci: geologi, ingegneri, musicisti. Insomma, questa è la nuova frontiera del combattere in qualche modo la disoccupazione. Vendesi, professionalità. La situazione, insomma, è difficile e il tema del lavoro è un tema, con questo Jobs Act, certamente centrale. L'altro tema rimane quello del Senato, per venire alle questioni politiche. Ieri Matteo Renzi, nel retroscena consueto e quotidiano di Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, raccontano, continui a dire: non ho paura, come va a finire, ma una sola cosa è certa: io non ho paura di come finirà al Senato. Il racconto è del Premier verso la prova dell'Aula. L'unico timore per Renzi è la possibilità di un'alleanza tra il Movimento 5 Stelle, che effettivamente anche ieri ne abbiamo parlato con il senatore Nicola Morra, un po' così a sorpresa per molti, è contro la riforma del Senato, questa riforma perlomeno, e l'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e i civatiani, quindi Pippo Civati del PD. Ecco, secondo il Corriere questa è l'unica cosa che un pochino preoccupa Renzi per quel che riguarda i numeri, anche perché, come scrive Repubblica, quei 45 senatori del PD pronti al salvataggio di Palazzo Madama. Giovanna Casadio ne parla a pagina, ne scrive a pagina 7. Sarebbero questi 45 C'è chi ha presentato l'altra riforma come Vannino Chiti o Felice Casson. Una ventina di senatori di tutte le aree, tra i quali Massimo Mucchetti, Paolo Corsini, Walter Tocci. Ecco, qualche giorno fa, tra l'altro, una pattuglia di 25 senatori del PD guidati dal lettiano Russo avevano criticato in una lettera aperta l'abolizione del Senato così come il governo l'ha disegnata. Insomma, il tentativo, dice Repubblica, è che ci sono delle resistenze soprattutto all'interno del PD. Tra l'altro, delle penne più raffinate, secondo me, del giornalismo italiano è quella di Paolo Crecchi sul Secolo XIX, che oggi racconta in uno straordinario reportage al Senato gli ultimi samurai del Senato sotto assedio. Lo trovate a pagina 7 del Secolo. Beh, si comincia dal senatore Massimo Caleo del PD. Tutto buono qui al Senato, ma le spigole a 3,50 euro non ci sono più. Ecco, questo fa capire già il tenore del pezzo. Fa un viaggio all'interno del Senato tra le visite delle scuole, come ieri quella della scuola elementare di Ausonia, con i bambini di quinta con la coccarda tricolore appuntata al grembiule, e la preside Filomena De Vincenzo che fa la spiritosa. Siamo arrivati appena in tempo, prima che lo chiudano. O il commesso Daniele Quirico che spiega agli alunni: siamo nella sala del Risorgimento, lì vedete il re Vittorio Emanuele che indica lo statuto albertino, laggiù Mazzini con la poesia che gli ha dedicato Carducci, e qui il conte Camillo Benso de Cavurre. Questo è nel pezzo di Paolo Crecchi, che racconta gli ultimi samurai in questo viaggio a Palazzo Madama dopo la riforma approvata dal governo, e quelli che cercano di resistere alla riforma del Senato. L'appello invece del Giornale, a proposito di tagli al Premier Renzi, è questo: adesso Renzi, sei coraggio, taglia gli stipendi alla Consulta. È un tema che abbiamo affrontato anche noi di recente, ospitando il professor Roberto Perotti, ospitando l'ex presidente della Corte Costituzionale Valerio Onida. Il Giornale rilancia con Anna Maria Greco a pagina 5: l'unico organo non toccato dalla spending review, con il presidente che guadagna oltre 500.000 euro. Sono 15, ricordiamo, i giudici della Corte Costituzionale, oltre a quelli ovviamente che sono in pensione. In ogni caso, insomma, il tema del Senato rimane un tema centrale. A proposito di samurai, voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Caro Mauro, sì. Buongiorno. Beh, speravo magari i giudici, a proposito di giudici della Corte Costituzionale, o a proposito di stipendi da 500.000 euro, potevo dire. Mauro anche Meazza, questo buongiorno. Non sarebbe male, sì, anche questo sarebbe una significativa riduzione del mio stipendio. Esatto, non scherzo, esatto. Naturalmente, senti, che ti volevo segnalare, vabbè, un po' di cose, diciamo, da Radio Fisco oggi, sì. Soprattutto, quindi saranno, spero, contenti gli ascoltatori più professionali. Allora, innanzitutto c'è all'orizzonte una riduzione dell'IRAP, e lo raccontano Mobili e anche Parente, insomma Mobili soprattutto, nelle prime pagine Sole 24 Ore. Si studia una riduzione almeno del 5%, un taglio cosiddetto lineare, seguirebbe a quello dell'IRPEF, che dovrebbe appunto dare un po' di soldi in busta paga, come annunciato dal prossimo maggio. Poi c'è un, non perderti naturalmente l'inserto con il Sole 24 Ore dedicato alle misure antiriciclaggio, anche perché così capisci come mai ti chiedono che se devi cambiare i tuoi 2 euro in una valuta straniera, ti chiedono codice fiscale, carta d'identità e tutto quanto, soprattutto gli obblighi che cadono sui professionisti. E poi oggi c'è in edicola anche un codice dell'accertamento, quindi con tutte le regole sui controlli. Insomma, e questo sui abbiamo, controlli abbiamo sistemato fiscali. Tutti i fiscalisti. Ma sì, abbastanza, devo dire, perché poi c'è invece una sentenza interessante ma preoccupante della Cassazione sugli omessi versamenti IVA. Ma qui adesso non voglio, come dire, darti in modo di far sfoggio della tua competenza in materia. No, che ma io, so, guarda, do ripetizioni. So che sei molto preparato sugli omessi versamenti IVA, sugli aspetti penali. Il diploma, no? Regionale. No, lo so, perché ne parliamo spesso anche al bar. Infatti. Piuttosto che parlare di calcio, io preferisco parlare con te di accertamenti IVA. e di reato da omessi versamenti IVA, e quindi leggi poi questo contributo interessante sulla anche perché il calcio dà poche soddisfazioni, mentre gli omessi versamenti IVA le questioni penali legate ai versamenti IVA tratteniamo dei capannelli di 15 persone alla volta, questo sì, spesso è vero, specialmente di ragazze, è vero Alessandro? Sì, tutto come quando parliamo allontanarle proprio a spintoni, sì. Guarda, allora io voglio concludere con un altro argomento che piace molto alle ascoltatrici, che è l'abuso del diritto. L'abuso del diritto, tu so che anche su questo sei molto preparato, l'abuso del diritto è stata istituita la commissione, appunto, che deve scrivere finalmente le regole sull'abuso del diritto. In realtà è una grandissima seccatura per quanto riguarda appunto le contestazioni del fisco. Si spera entro luglio di avere delle misure, come dire, più puntuali, più precise. Lo dice la delega fiscale. Ti ringrazio, caro Mario Meazza, di non aver ricordato che ieri è tornata la Champions League. Hai visto che c'era l'Atletico? Non so nulla veramente di questo, sport di cui mi parli, ma è qualcosa che riguarda l'IVA in Giappone? Sì, può essere. Perché, l'IVA in Giappone. No, perché è aumentata di 3 punti, dal 5 all'8%. Pensavo volessi parlarmi di questo. Pensate la vita di Mauro Meazza, occuparsi dell'IVA in Giappone. Io pensavo... Ma l'IVA in Giappone mi sembra un argomento interessante, perché non capisco la tua ironia. Non sono preparatissimo sull'IVA a Giacarta, devo ammettere, però... posso informarmi se ti interessa, e anche interessa agli ascoltatori. Cioè, ovviamente. Arigato. Arigato. Traffico. Alessandro Milan, le mani sul volante dell'informazione. Effettivamente. Per concludere la politica, c'è da dire che Silvio Berlusconi, a proposito di Senato, secondo Repubblica, ha messo in campo un ricatto, così lo definisce Repubblica, una trattativa, un salvacondotto, cioè entro il 10 aprile, attraverso il suo plenipotenziario Denis Verdini, che ne starebbe parlando con il ministro Maria Elena Boschi, questo scrive almeno Alberto D'Argenio a pagina 6, di un salvacondotto, cioè come dire, in vista del 10 aprile la decisione sui domiciliari o sui servizi sociali per Berlusconi, Berlusconi vorrebbe in qualche modo una tutela politico-giudiziaria, come per esempio un incontro pubblico con Renzi al Nazareno, con l'ovvio clamore mediatico per far capire a tutti che sono io l'interlocutore sulle riforme, altrimenti il rischio è di far saltare appunto le riforme stesse. Questo secondo Repubblica. Berlusconi, che tra l'altro le prese anche con le candidature, che credo il 15 aprile più o meno scadono le candidature per il rinnovo dell'Europarlamento. Ebbene, Berlusconi che dice: alcune facce ci fanno perdere voti, e quindi mi spiace, sono persone che stimo e hanno fatto la storia anche del nostro partito, ma dovrò dire tanti no. Tra questi, il più in bilico è dato Scajola, che si è ribellato così: mi trattano come un appestato. Rispunta anche Enrico Letta. Che fine ha fatto La Stampa con Aline Arletta? Lo intervista, ne racconta un po' una giornata a Parigi, dove l'ex premier sarà nell'università di Sciences Po a togliere l'abito del politico e indossare quello del professore per parlare di Europa, crescita e populismi. Per la verità, in questa pagina sulla Stampa, pagina 5, Letta, professore a Parigi, insegno a Sciences Po, ma non sono un esule. Non racconta molto, non racconta dell'Italia, dice semplicemente che il populismo è al centro del dibattito, non abbiamo capito il Movimento 5 Stelle, l'abbiamo percepito poco, era dato al 20%, invece ha preso il 25% alle elezioni, e questo ha sconvolto l'equilibrio politico. E poi il suo legame con la Francia: sono andato al cinema dopo mesi, sono andato anche a vedere una partita del Paris Saint-Germain con Ibrahimovic. Ecco, questo è il sunto dell'intervista o del racconto della giornata di Enrico Letta a Parigi, che trovate sulla Stampa. Mentre, a proposito di crisi, mi ha colpito la pagina sul Messaggero in prima pagina e poi pagina 9 di Franca Giansoldati sulla paga del prete. Mi ha molto incuriosito. Quanto guadagnano i preti? Lo stipendio di un cardinale in media di 5.000 euro. Ratzinger invece, il Papa Emerito, ne prende 2.500 di pensione, mentre i parroci in media 1.000 euro netti al mese. Lo stipendio fisso di un parroco, escluso ovviamente le offerte per le messe. Praticamente quello che guadagna un operaio o un bracciante agricolo. Forse non un granché, ma pur sempre una sicurezza economica. Tanto che gli 800 preti che vivono nella diocesi di Bergamo hanno deciso di destinare a chi ha perso il lavoro nel territorio delle loro parrocchie lo stipendio. Lo hanno deciso insieme al loro vescovo. Molte attività d'altronde della provincia di Bergamo hanno chiuso. Allora il vescovo Francesco Beschi a sua volta girerà il suo stipendio mensile da vescovo a 2.600 euro a beneficio della causa. Ha detto: diamo 800 preti per 1.000 euro, sono 800.000 euro, un bel gruzzolo che destineremo ad un fondo aperto alla diocesi di Bergamo destinato a disoccupati cronici o chi non riesce più a reinserirsi nel mercato del lavoro. E insomma, gli stipendi dei sacerdoti, tagli in vista anche per loro, e questa è la situazione. Tra l'altro questa è la decisione della diocesi di Bergamo di dare 800.000 euro alla disoccupazione. Allora, noi di cronaca ci sono molte pagine, ce ne occuperemo tra poco alle 8.15 in profondità della vicenda delle baby prostitute ai Parioli, con questa proposta di alcuni avvocati dei clienti di queste baby prostitute di patteggiare per evitare la pubblicità, diciamo, negativa che ne consegue da un processo, anche le lungaggini burocratiche, e patteggiare pagando 40.000 euro. La procura ha detto che bisogna valutare. Ieri si è alzato un polverone di polemiche: ma come, con 40.000 euro si compra in qualche modo il silenzio su un reato così odioso, quello di essere andato con delle baby prostitute? I PM dicono: valuteremo caso per caso. La procura frena dopo la protesta del PD, delle associazioni. Titolo anche il Messaggero a pagina 13: bufera sul patteggiamento è un reato ignobile, dice l'onorevole Zampa, che sarà nostra ospite alle 8.15. Anche su Repubblica, baby squillo Boldrini contro i clienti, la presidente della Camera che dice: non entro nel merito dell'inchiesta, ma considero comunque lo sfruttamento della prostituzione minorile come uno dei reati più insopportabili e odiosi. Ma su questo in realtà va un po' controcorrente, sarà nostro ospite anche lui Filippo Facci, che oggi su Libero scrive: ma come, il patteggiamento è qualcosa che è previsto dal codice. L'hanno inventato per questo, il patteggiamento serve proprio ad accelerare i tempi, a non ingolfare inutilmente la giustizia, tanto che quella anglosassone, che funziona, è imperniata sui patteggiamenti, sulle pene pecuniarie. Ma da noi non va bene, ci vuole la sfilata degli untori, un bel processo lento e complicato che risarcisca le minorenni quando saranno in pensione, useranno i soldi per comprare vestiti firmati e soprattutto borse, sì, ma quelle dell'acqua calda. Quindi Filippo Facci va controcorrente a dire: ma come, basta questi moralismi, il patteggiamento è previsto, e quindi di cosa stiamo parlando? A proposito di patteggiamenti, una vicenda totalmente diversa, ma oggi sui giornali finisce la vicenda dell'ex ministro dell'economia Giulio Tremonti, che con Fiorenza Sarzanini, ne scrive a pagina 17, ha patteggiato per la vicenda dell'inchiesta sulla casa messa a disposizione a lui dall'ex onorevole milanese. Tremonti patteggia e versa 40.000 euro. L'ex ministro: pago per chiudere il caso. Come vedete, insomma, il patteggiamento è qualcosa che è previsto dall'ordinamento giudiziario. Va bene, siamo al momento conclusivo, il momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali, perché la carta costa, e al giornale che è in testa in questa classifica su Twitter, la trovate sul mio profilo Alino Milan, il giornale in testa, credo a 35 segnalazioni. Poi a fine stagione porteremo la coppa al direttore del giornale vincitore. Comunque, il giornale con Gianluca Grossi: uomo e donna sono diversi anche negli incubi notturni. Le donne sognano quando sognano di questioni difficili, di inseguimenti, litigi e difficoltà comunicative. Care donne, è così? Vi inseguono? litigate. Gli uomini invece di guerre, terremoti e disastri naturali, ma chi se ne frega? Io vorrei sognare per una lunga dormita di 10 ore. Qualsiasi cosa, datemi qualsiasi sogno. Anche di vedere degli articoli, vabbè, articoli in cui la carta costa un po' meno. Dai. Mattino. Eccoci qua alle 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, cari ascoltatori, ieri quando i giornali hanno pubblicato la seguente notizia, cioè che alcuni dei clienti delle baby prostitute dei Parioli a Roma chiedono il patteggiamento, per cui pagando 40.000 euro potranno evitare il processo, si è sollevato un polverone di polemiche che oggi continuano sui giornali a dire ma no, ma come non si può garantire a una persona di patteggiare una pena per un reato così odioso? Allora, intanto una precisazione, cos'è il patteggiamento? Perché magari non tutti lo sanno, il patteggiamento è un rito alternativo previsto dal codice di procedura penale, per cui se le parti, cioè difesa e accusa, si accordano, si stabilisce una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria o anche una pena detentiva per evitare il processo. Dunque serve certamente all'accusato per evitare una pubblicità negativa che deriva da un processo, serve però anche allo Stato perché così risparmia tempi, risparmia lungaggini processuali. E succede tutti i giorni, per dire, vicenda totalmente diversa, ma casualmente oggi sui giornali si racconta il fatto che Giulio Tremonti, ex ministro dell'economia, ha patteggiato pagando 40.000 euro per la vicenda di una casa che gli era stata messa a disposizione dall'ex onorevole milanese. Però in questo caso, siccome il reato è molto, si dice in questi casi, particolarmente odioso, ecco le polemiche. No, il garante, per esempio, per l'infanzia Spadafora dice: sono sgomento nell'apprendere che una decina di clienti di minorenni prostitute stanno patteggiando per poter evitare il processo e la conseguente gogna mediatica. Allora, siete anche voi sconvolti o vi pare una questione di civiltà garantire il patteggiamento anche in questi casi? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Voglio salutare intanto Filippo Facci, editorialista di Libero. Buongiorno Facci, benvenuto, eccoci. Buongiorno a tutti. Saluto anche l'onorevole del PD Sandra Zampa, che è vicepresidente della commissione bicamerale per l'infanzia. Buongiorno e benvenuta onorevole, eccoci. Buongiorno. Lei ieri si è molto spesa in maniera critica di fronte a queste possibilità di patteggiamento. Le faccio subito la domanda provocatoria: ma perché allora ci vorrebbe una bella gogna per... No, guardi, la gogna è una cosa che non riserverei per nessuno. L'inciviltà è una cosa che detesto in tutti, declinata in tutte le sue forme. E quindi perché sconvolge o comunque suscita polemiche il fatto che delle persone possano ricorrere a un rito che è previsto dalla legge? Non mi sconvolge neppure, è una cosa che io trovo inopportuna e che troverei sconcertante, perché nel corso di un'indagine sulla prostituzione minorile che la bicamerale sta conducendo, noi ascoltiamo esperti, anche persone che sono in contatto con questo fenomeno, e dobbiamo prendere atto che gli adulti hanno una grandissima responsabilità di fronte a quello che sta avvenendo, e decidere o scegliere o concedere la possibilità di cavarsela pagando, in realtà non sono 40.000 euro, sono 250 euro al giorno per ogni giorno di condanna. Sì. Sono degli sconti di pena, quindi dipende da quanto è la condanna e da lì viene fuori il totale. Ecco, concedere la possibilità di patteggiare la pena e di avere degli sconti, in questo caso lancia un messaggio che è ad un tempo alla società degli adulti e a quella dei ragazzi e delle ragazze, degli adolescenti italiani e non solo italiani. La prostituzione interessa molto anche i minori stranieri senza famiglia, i cosiddetti minori stranieri non accompagnati in questo paese, maschi e femmine, ma è di tipo completamente diverso e ha ragioni diverse di essere. Ma dicevo appunto, il messaggio è che è una cosa che si può fare, e invece questa cosa non si può fare. Mm-hmm. Non si può fare perché porta dei danni psicologici grandissimi, lascia dei segni sull'anima di questi ragazzi, di queste ragazzine, e io non credo che qualcuno possa sostenere che andare a letto con una ragazzina di 14 anni non ci si accorge che è una ragazzina. Questo no, però il patteggiamento non è una non assunzione di responsabilità, non è una assoluzione, non è... No, non è una soluzione, ma è un modo per cavarsela a molto, in questo caso, molto buon mercato. Quindi... Io credo che naturalmente, siccome è lecito, resta lecito, nessuno appunto cerca delle gogne, ma io auspico che il giudice non conceda il patteggiamento, comprendendo la gravità di quanto sta avvenendo. Ma infatti la procura su questo ha detto non c'è ancora nessun tipo di patteggiamento accordato. Insomma, se ho capito bene, per lei non, questo patteggiamento non garantirebbe un'assunzione e non garantirebbe anche un'assunzione di responsabilità del reato particolarmente odioso da parte di queste persone. Allora oggi Filippo Facci ne ha scritto proprio su Libero, ne scrive in prima pagina, il suo solito appunto in corsivo in prima pagina. Filippo Facci, che cosa invece mi sembra di capire dal pezzo che ha scritto non la sconvolge, non la trova molto preoccupato nel fatto che il patteggiamento possa essere concesso anche in questo caso? Ma insomma, in linea generale penso che le preoccupazioni e gli sconvolgimenti non dovrebbero essere alla base delle decisioni che riguardano lo Stato di diritto, però nonostante la buona volontà iniziale mi sembra che non sia chiaro che cosa sia un patteggiamento. Tento di spiegarlo con parole mie. Il patteggiamento è l'architrave della giustizia ritenuta più funzionante e anche giusta del mondo, cioè quella del rito anglosassone, quella americana, quella inglese, eccetera, eccetera. E non è che significa che due parti, cioè l'accusa e la difesa, si siedono a un tavolo sullo stesso piano e si mettono a fare un patto. Significa, per prima cosa, che il colpevole accetta di essere colpevole, accetta le tesi dell'accusa, e ciò che viene patteggiato è semplicemente la pena. Nella maggior parte dei paesi anglosassoni i processi non si fanno neanche, perché ci si accorda prima. Lì addirittura si arriva a patteggiare tutto, anche gli omicidi sono oggetto di patteggiamento, e non significa che le parti si accordano, è un modo di cavarsela a buon mercato, eccetera, eccetera. Significa che si va al cuore di ciò che la giustizia dovrebbe essere, ovvero sia che una persona comunque paga in una misura che il codice di procedura penale prevede come tale, paga economicamente al posto di farlo 12 anni dopo alla fine di un rito di tre gradi di giudizio infiniti, che costano allo Stato, che costano al tempo, che fanno dimenticare la questione, eccetera, eccetera, e anziché comunque proporre la gogna mediatica, che alla fine è quella che si vuole, mi spiace, ma alla fine ci trovo delle contraddizioni in quanto ho detto prima, e quindi alla fine la giustizia, come dire, del patteggiamento è molto pragmatica, è molto pratica, è immediata, è un obiettivo per lo Stato. Poi uno alla fine che cosa dice? No, ci vuole il processo, voglio vedere la loro faccia fotografata o ripresa dai media, però non so come spiegare una cosa, è legale oppure non lo è. Sì. Il patteggiamento è la giustizia alla sua massima efficienza, può essere accettato e proposto dal pubblico ministero, sì, può non esserlo, può essere proposto dal pubblico ministero ma rifiutato dal giudice, e alla fine, cioè, siamo sempre lì, abbiamo in mente la giustizia come un qualcosa che non sia una... debba non essere una via di uscita troppo veloce, però, e semplice, ho sentito questo, dire. No, ma che su questo Facci nessuno mette in dubbio la legittimità. No, non è vero che nessuno lo mette in dubbio. No, la legittimità del patteggiamento è legittima, anche l'onorevole Zampa ha detto è legittimo, è lecito che ci sia, però si discute se sia opportuno per questo tipo di reato, cioè è troppo comodo cavarsela così in questa tipologia di reato. Questo è il senso, Facci. Sì, ma voglio dire, qual è l'alternativa? Cioè, che cosa è il cavarsela che mi trova in totale disaccordo? Cioè, in altre parole, cavarsela che cosa significa? Che venga ritenuto veloce e semplice quello che altrimenti si vuole lento e complicato e lungo e spalmato in, ripeto, in 10-12 anni di processo su tre gradi? Cioè, è meglio che ci sia un risarcimento economico, ad esempio, per le minorenni adesso oppure fra 20 anni? È meglio che le persone comunque poi si pensa, c'è questo ragionamento sotto sotto, che se vanno al processo beccano una condanna pesante, mentre se fanno il patteggiamento beccano una condanna leggera, ma non è assolutamente così. Cioè, il patteggiamento non è uno sconto di pena fatto da uno Stato in vena di concessioni, è la vittoria dello Stato che ottiene ciò che alla fine è subordinato all'azione della giustizia, cioè che paghino in termini di denaro, che paghino comunque in termini di condanna eventualmente carceraria. Se non c'è la condanna carceraria vuol dire che non è prevista, e non è prevista prima e non sarà prevista poi. La differenza qual è? Il tempo, i soldi che vengono spesi e la gogna mediatica che si finge di non voler vedere, ma in realtà è proprio quella che si vuole. Allora, io è interessante questo punto, onorevole Zampa, cioè Filippo Facci sottolinea il fatto che non c'è alcun tipo di impunità nel patteggiamento. No, infatti il punto è esattamente centrato. Il giudice infatti può accettare o rifiutare il patteggiamento, certo. In Italia, e questa facoltà gli è data proprio perché noi abbiamo un sistema, per fortuna dico io, che è lontano da quel modo orribile di americana memoria, per l'appunto, e infatti il collega Faccio ha citato proprio quello. Dico collega perché anch'io sono giornalista. Ma perché dice orribile? Non è... È orribile perché quando tutto si può risolvere pagando, e là in America si arriva a coprire tutto con i soldi, anche in reati, come Facci ricordava, molto molto molto gravi, come l'omicidio, perché non saprete cosa c'è di più grave che togliere la vita a una persona. Io non penso che possa essere definito un buon metodo solo perché è efficiente. Ecco, allora, il fatto che la giustizia italiana sia lenta non giustifica in questo caso il dove ci troviamo e a che cosa siamo di fronte. Noi siamo di fronte a un problema serio, nostro paese deve affrontare con serietà. Ma questo certamente si sta diffondendo. Però mi scusi, onorevole, queste ragazze interrogate dalla... Io ho udito, devo dire davvero con sorpresa anche, sincera sorpresa, pur avendo certamente molti, ma molti più anni dei 15 o 20... dei 15 o 16 di queste ragazzine. Là è venuta in audizione in bicamerale la presidente del tribunale, una presidente del tribunale minorile, che ha interrogato alcune ragazze coinvolte in fatti di questo genere, che ci spiegava che sono ormai a una totale scissione tra il corpo e la sfera affettiva, cioè che l'idea che vendere qualcosa di sé va benissimo, perché c'è un modello ormai per cui l'importante è possedere una cosa. Mi scusi onorevole Zampa, non crede che siano due piani diversi? Cioè la riflessione sulla riflessione anche sociologica sul punto in cui siamo arrivati, se ne può fare simposi, discussioni, approfondimenti. No, io credo che debba arrivare un messaggio molto chiaro ai ragazzi e alla società. Questo modello non è un modello accettabile. Questo lo si può fare anche attraverso un processo? Questo messaggio può arrivare anche attraverso un processo? Io sì, per questo scinderei. Deve arrivare anche attraverso un processo. E io le dico, tant'è vero, che le ribadisco, dopodiché io ho il massimo rispetto della legge e quindi come decideranno le decisioni i giudici, che verranno prese... non sarò certamente io quella che si mette a urlare, ma in questo caso davvero il mio auspicio è che non sia così, che non si accorga. Vediamo, prima della pubblicità, Facci, che replica su questo, anche sulla questione dell'orribile modello anglosassone che lei ha citato? Beh, ma io mi se mi arrendo. Io continuo a pensare che in realtà dietro la sieraficità dell'onorevole Trump ci sia una grande confusione. Perché vabbè, uno dice il rito anglosassone non è un buon metodo, è orribile, vabbè, già qua voglio dire, va bene, si vede che il sistema italiano verrà esportato come esempio, evidentemente, non solo in termini anche di non solo di efficienza, ma proprio anche di giustizia. Poi evidentemente nei paesi anglosassoni non ritengono serio il problema della prostituzione minorile, è l'unica cosa che mi viene da dedurre. Il patteggiamento non è un cattivo messaggio, chi lo pensa non sa cos'è un patteggiamento, non è un messaggio il patteggiamento, significa fare giustizia prima anziché farla dopo, far arrendere l'imputato, chiamiamolo in questo caso, prima anziché attraverso un processo che in teoria è una sconfitta per lo Stato perché serve solo a lui, cioè all'imputato, per cercare di dimostrare una libertà, un'innocenza che altrimenti, appunto, accettando il patteggiamento non mi sembra di capire che sia una posizione su questo, cioè su cosa sia il patteggiamento, in realtà è chiaro, lo sappiamo. Non è vero, io ho riscontrato anche in grandissimi e eminenti direttori di giornale un'ignoranza di cosa sia il patteggiamento, che pensano che il patteggiamento sia qualcosa che alla fine vada sempre a vantaggio dell'imputato, ma non è vero, è una vittoria dello Stato il patteggiamento, che significa che la ragione è così schiacciante che l'altro non può fare altro che essere costretto a patteggiare sempre che lo Stato te lo conceda alle sue condizioni. Dopodiché, se lo Stato concede, ovviamente, in questo avrebbe ragione l'onorevole Zampe e qualsiasi altro, ti concede delle cose ridicole, allora sì, davvero diventano saldi di fine di giustizia, allora in questo caso sì, però se invece ti dicono paghi subito e alla fine tanto in galera non ci andrai neanche fra 12 anni, paghi salato, immediato, risarciamo le vittime, eccetera, eccetera, e non ingolfiamo la giustizia dei tribunali, a me sembra è una vittoria dello Stato. Per me sì. Allora ripartiamo da qui tra un attimo con Filippo Facci, l'onorevole Sandra Zampa e le vostre telefonate, state con noi. 24 mattino. Eccoci alle 8:38 minuti, continuiamo la discussione con l'onorevole Sandra Zampa, con Filippo Facci. Voglio salutare anche Valentina Errante del Messaggero. Buongiorno Valentina, che si sta occupando di questa vicenda, ne scrive anche oggi sul Messaggero. Intanto Valentina, capire, c'è una cosa che non si era ieri chiarita. Ieri venivano date per alcuni che avevano già patteggiato, poi la procura ha detto no, nessuno ha patteggiato. Qualcuno dice in realtà tre hanno già patteggiato, ci vuoi chiarire? No, patteggiato significa che c'è anche l'accordo del GIP, appunto, e questo appunto non è successo. Quindi nessuno al ci momento sono delle trattative tra la procura e alcuni legali, e altri legali si sono presentati negli uffici di Piazzale Clodio per prendere accordi, per capire quanto sarebbe la pena che i PM intendono concordare, perché il patteggiamento è una pena concordata. Chiaro. Alla quale poi il GIP deve dare l'assenso, cioè l'ultima parola rimane al GIP comunque. Questo assolutamente, però al momento la notizia questa è da chiarire, non c'è stato nessun accordo per nessun atteggiamento. Nessun accordo ufficiale, ci sono trattative in corso. Quanti sono gli indagati che avrebbero manifestato questa intenzione di patteggiare? Bisogna appunto distinguere tra un'intenzione ufficiale, che significa il legale che presenta una richiesta scritta, e le conversazioni anche informali tra la procura e i legali, quindi non si può dare un numero esatto. Ci sono trattative in corso, poi appunto i legali vanno a informarsi, anche perché è meglio di affrontare un processo, però comunque ammettere una responsabilità. Ecco. E questo certamente, come sottolinea Filippo Facci. Però Facci, io ripartirei da qui. E sa cosa ha dato molto fastidio alle persone? Che leggere 40.000 euro, quella che è la cifra, insomma, di un ipotetico patteggiamento su questo tipo di reato, ha fatto dire a qualcuno: ma come, prima hanno speso una cifra per comprare il corpo di una minorenne e adesso se la cavano, è chiaro che ammettono una colpa, però con un'altra cifra in qualche modo evitano tutta quella che è il la gogna inevitabile che arriva da un processo del genere. A proposito di gogna, in Gran Bretagna si ricorda che ha messo anche le liste dei pedofili su alcuni giornali, ci sono persone che si sono tolte la vita, quindi insomma anche lì, più dal punto di vista mediatico, non è che vanno teneri, poi in realtà il dibattito è aperto da questo punto di vista. Quindi questo ha dato fastidio, Facci. Beh, io non ho nessuna tolleranza per chi mette sul piatto di ciò che dovrebbe avere peso nel sistema della giustizia la gogna mediatica. Fine. Il sistema, insomma, definito orribile prima quello anglosassone, è il sistema in cui poi durante il processo non si possono neanche fare spesso le foto e le riprese e per avere le immagini c'è dentro uno che fa i disegni degli imputati. Quindi secondo me invece da quel punto di vista il rito anglosassone è il rito civile, nel senso che il nostro lo è meno, e quindi alla fine stringi, il discorso è: vogliamo che vedere le facce dei come li chiamiamo, pedofili, dei sfruttatori minorenni o quello che sono, vogliamo che guardare sui giornali, guardarci lo spettacolo della giustizia, salvo poi lamentarsi della sua lunghezza, della sua farraginosità e del fatto che ci metta 10-12 anni a arrivare a un una sentenza definitiva. In realtà si vuole arrivare bisogna, a questo, lo Stato, lo Stato, ma assolutamente non c'è altro. Cioè, alla fine, a meno che si ritengano assolutamente ingiuste e sproporzionate le misure che saltino fuori da un patteggiamento, che però, ripeto, è un'arma, è un coltello che è dalla parte del manico dell'accusa e dello Stato che vince, perché è lui che concede un patteggiamento alle sue condizioni, a meno che allora le cose siano in questa chiave per cui i giudici e i pubblici ministeri impazziscano e dicano facciano pagare troppo poco, dispensino una pena inferiore, allora in questo caso sarebbe diverso. Se no è quello. Però, onorevole Zampa, però su questo Filippo Facci insomma insiste, dice non c'è altro motivo se non quello di voler vedere le facce di queste persone esibite. Guardi, per me possono anche non farle vedere le facce, si possono anche fare dei processi a vedere le facce. Io penso che il processo vada celebrato tutto e che debba arrivare a una condanna, non debbano essere concessi sconti di pena e non si debba arrivare al patteggiamento, ma non perché io ho qualcosa contro l'istituto del patteggiamento, che mi va benissimo. Io so che cos'è il patteggiamento e non ho nulla contro il patteggiamento in se stesso. Il problema è questa tipologia di reato. La pedofilia non può essere una cosa che si risolve pagando, perché se no passa l'idea che basta essere ricchi e si paga, oppure che appunto in fondo con i soldi ce la si cava. Senta, non è un messaggio che può dare né agli adulti né ai ragazzini. Lei onorevole Zampa, soprattutto ora che sappiamo che questa cosa sta avvenendo anche da noi, e in maniera che adesso per fortuna credo che non si possa dire essere un fenomeno grande quantitativamente. Non mi risulta che i casi siano così tanti da poterlo definire. Il cellulare un attimo ci abbandona. Allora facciamo così. Intanto saluto e ringrazio Filippo Facci che ci deve lasciare qualche minuto in anticipo. Con l'onorevole Zampa che recuperiamo tra un attimo col cellulare dopo il traffico, con Valentina Errante del Messaggero e con i tanti ascoltatori, Alessandra Pavia, Angelo Latrani, Carmelo da Viterbo, che sono in attesa, riparto tra un attimo. Siamo qui allora c'è stato un problema, recupereremo poi la viabilità. Alle 8:45 minuti vorrei sentire Alessandra dalla provincia di Pavia, ci ha chiamato all'800 24 0024. Alessandra, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Io vorrei dire che oltre al fatto pesantissimo che mi sconvolge veramente che questi uomini, se uomini si possono definire, hanno rovinato queste bambine, non c'è da dimenticarsi, forse gli italiani magari l'hanno dimenticato, dato che vediamo così tante ragazze sulla strada, che comunque la prostituzione in Italia è illegale. No, beh, non è proprio così, cioè non la prostituzione, lo sfruttamento della prostituzione. A parte che qui si parla di prostituzione minorile, quindi è un reato doppiamente diverso, però non è illegale prostituirsi per maggiorenni, è illegale lo sfruttamento. Però lei, diciamo, sulla questione invece di una prostituzione minorile in questo caso, e quindi di andare anche con una prostituta minorenne, dice ci vorrebbe, questo per dire che cosa? Che vorrebbe il processo, cioè vorrebbe vedere un processo, la indigna a sapere che c'è questo patteggiamento, che però che però abbiamo spiegato è un'ammissione di colpa, cioè no, non è abbastanza, insomma, secondo lei. Passa come se si paghino i giudici, non so, forse io sono un no, po'... Beh, non è così, come abbiamo spiegato, è un accordo e lo Stato accetta, proprio lo Stato dice ok, paghi questo per evitare tutte le lungaggini del processo, accetta, non è che lo Stato, insomma, accetta di venire pagato per mandare uno impunemente via. Comunque Alessandra, questa è la sua posizione, vorrei andare da Trani, da Angelo. Angelo, buongiorno. Buongiorno, senta, ho ascoltato attentamente, sì, e credo che un reato di questo tipo, stiamo parlando ovviamente di pedofilia, prostituzione minorile, non può essere ammessa ad un patteggiamento. Il patteggiamento può essere nel caso un attenuante della pena, ma in un reato di questo tipo la certezza della pena vi deve essere, anche perché il messaggio sociale che ne viene fuori è di una giustizia non uguale per tutti. A parità di reato, in grado di disporre di mezzi finanziari, di fatto potrebbe ricorrere al mezzo del patteggiamento, contrariamente a chi non è nelle condizioni. Quindi non è la possibilità e la ricchezza o la possibilità di pagare, sì, ma è lei, il reato di per sé che deve essere. Vede. Però lì bisognerebbe cambiare il codice. Io vorrei Valentina Errante del Messaggero. Sì, no, bisogna fare alcune precisazioni. Esatto. Allora, il patteggiamento è previsto per tutti i reati, esatto, che con sconti di pena possano arrivare ai 5 anni, perché non si può andare, non si può patteggiare l'omicidio, perché la pena massima prevista con patteggiamento è 5 anni. L'articolo del codice contestato dalla procura prevede pene da 1 a 6 anni. Forse la cosa su cui si può discutere, ma la procura lo sta valutando soltanto per chi abbia avuto un incontro, per esempio, con queste ragazze, è che la procura stia partendo dalla pena minima prevista da questo articolo del codice, che è la prostituzione minorile, secondo l'articolo 600, secondo comma, che viene contestato ai clienti e non agli sfruttatori, che invece hanno pene da 6 anni a 12 anni. E dunque l'unica cosa su cui si può discutere è appunto la valutazione, cioè il fatto di partire dal minimo della pena, cioè da un anno. Io però vorrei chiederti questo, una sorta di gogna in qualche modo c'è già stata, no? Ci sono dei casi, il caso più eclatante è il marito dell'onorevole Bussolini, ma c'è anche il figlio dell'onorevole Bruno che Donato è indagato. Ecco, questi qui sono già finiti su tutti i giornali, e sappiamo soprattutto il marito della Mussolini è stato il primo, con anche articoli, approfondimenti, eccetera. Allora in questo caso non c'è una sorta di squilibrio, cioè due persone sono già state esibite, diciamo, no? Con tanto di nome e cognome sappiamo un po' tutto. Questo è il prezzo che si paga ad essere in qualche modo famosi, perché se io scrivo sul giornale il signor Mario Rossi ovviamente non fa titolo. Poi questo bisognerebbe fare una discussione sulle modalità cioè sui media in generale, perché purtroppo il nome noto fa notizia, il signor Rossi non fa titolo, ecco, c'era il signor Rossi tra i clienti. Però chi ha un ruolo sociale evidentemente ti colpisce di più, ecco, sì, per cui diventa più notizia. Non è escluso che tra gli altri 50 clienti ci siano altri nomi noti. Ecco ma questi no, quello che voglio capire, esatto, sono venuti fuori due, perché sono venuti fuori dalle indagini approfondite dei giornalisti che sono riusciti a recuperare questi due, o perché due sono, come dire, stati dati, affidati? Altri invece sono stati, perché degli altri non si sa l'identità? Ecco, questo è il concetto. Degli altri, appunto, lo ripeto, perché appunto dire il signor Rossi comunque non faceva titolo, poi diciamo che bisognerebbe anche discutere su come tutti noi abbiamo trattato questa inchiesta. Io ho delle perplessità sulla morbosità, sul dettaglio finito sui giornali, la voglia sempre di mettere una parola in più nei verbali che avevamo, insomma, ci sono finiti dentro perché sono due personaggi famosi, perché sono due nomi. Questo certamente. Così. Fatemi sentire Stefania da Brindisi, buongiorno. Stefania. Buongiorno a voi. Volevo dire semplicemente questo, ribadire un concetto fondamentale, che il patteggiamento è una missione di colpevolezza. Sì, e questo l'abbiamo detto. Guardi, questo paese deve smetterla di essere un paese ipocrita e deve soprattutto essere chiaro con i suoi cittadini, perché se c'è uno strumento giuridico che intende andare in senso deflattivo, alleggerire il processo, noi sappiamo che in Italia i processi durano troppo, la giustizia arriva tardi, molte volte con una con una sentenza di assoluzione, laddove magari si riteneva, no, che ci fosse una colpevolezza già provata ante processo. Quindi io ritengo giusto che il patteggiamento si applichi in questo caso. Un'altra cosa soltanto, probabilmente questo è più un tema di natura sociologica, avrebbe più senso approfondire il tema per quanto attiene alla famiglia, no, al ruolo dei genitori, perché questo è un paese che non ha mai fatto abbastanza per la famiglia. Anche in questo caso l'Italia è un paese schizofrenico, cioè da un lato, come dire, stato confessionale, quindi la famiglia al centro, dall'altro invece vengono prodotti dei modelli assolutamente diversi. E va bene, chiaramente sono due piani diversi, ecco. Però diversi. Mi sembra di capire che lei comunque era d'accordo con quello che ha detto Filippo Facci. Con quello che ha detto Facci, nonostante, cioè lei non ne fa una distinzione per esempio per la tipologia di reato. Assolutamente no, bisogna colpire chiaramente lo sfruttatore in modo proprio esemplare lo sfruttatore. Allora, la ringrazio molto, grazie per essere intervenuta Stefania da Brindisi. Onorevole Zampa, sa che c'è stato di recente anche un onorevole suo collega Massimo Corsaro che ha suscitato un putiferio, e non lo cito per morbosità, ma lo cito perché lei all'inizio ha detto non si può non capire quando uno va con una ragazza del genere che sia minorenne. E invece, qualcuno di questi mi risulta che l'abbia capito, no? Sì, no, ma certo, mentre l'onorevole Corsaro insomma disse su Twitter: risparmiateci i racconti delle baby squillo, sono mignotte consapevoli e spontanee, giovanissime ma sempre mignotte. Ecco, questo scrisse l'onorevole Corsaro. Cioè, come dire, basta questa cosa che, non so, a 16 anni non ci sia la consapevolezza di quello che si sta facendo. Lei come replica di fronte a questa posizione? Io non penso che a 15 anni si scelga di fare la prostituta essendo consapevoli, sinceramente. Penso che ci si trovi a fare certamente, magari apparentemente scegliendo una cosa, ma condotti a questo da una serie di responsabilità che fanno tutti capo al mondo degli adulti. Ci sono però soltanto due cose che gli ascoltatori, anche il vostro dibattito, mi hanno fatto voglia di dire, di aggiungere. Uno riguarda i media. È vero che c'è stata morbosità, ma noi non ci interroghiamo mai sulla morbosità, o ci interroghiamo troppo poco sulla morbosità con cui si affronta il tema dal punto di vista dei ragazzini e dei minori, appunto. In tutti i casi, guardi, pochi giorni fa ho presentato un'interrogazione in Vigilanza Rai per un caso di affidamento ai servizi sociali di tre bambini, perché sono stati violati la carta di Treviso, tutte le carte deontologiche che i giornalisti si sono dati e che non hanno mai rispettato, la Convenzione ONU che dice che non dovrebbero essere identificabili, e in realtà c'è uno scatenamento pazzesco su questi ragazzi, senza rendersi conto dei danni che restano permanenti anche da adulti. E quindi io credo che prima che degli adulti pedofili comincerei a preoccuparmi del bene dei quelli che stanno crescendo a casa nostra. No, ma è anche la responsabilità dei media, che io accolgo, nel senso che anche Valentina Errante ci ha detto che effettivamente ci si potrebbe anche interrogare in questi casi come in altri sul ruolo dei mezzi di informazione. Io mi devo fermare qui, ringrazio l'onorevole Sandra Zampa, ricordo del PD, vicepresidente della Commissione bicamerale per l'infanzia, Valentina Errante del Messaggero, che oggi ne scrive e scrive di questa vicenda, e potete leggere i dettagli nuovi della procura, e Filippo Facci, che è stato con noi prima, con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli e il nostro alpino Peter Bescapè. Vi diamo appuntamento a domattina 6:30. Dai! Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.